la musica non è più musica. Ma la musica diventa magia. Magia. Magia. Mario! Mario! È speciale. È speciale. È speciale. When you want to begin it? Speciale console. Speciale magica console. Mario. Mario più. We'll be right back. musica elettronica che ci farà impazzire. We'll be right back. lo speciale Marione. We'll be right back. vogliamo fare gli auguri a Willy. Volevo salutare gli amici di Faenza, gli amici di Bergamo, gli amici di Empoli, i vecchi amici dell'Imperiale. Bene. Gli amici del Pullman. Ecco. This. dead. This I'm il grande Mario Più, DJ Sunlight, yeah, Cassi de Control, Mario, Mario, Mario. Shake your body now. You will rather shake your body now. You move your body. Adiós. È la musica. C'è la musica. 3 Fantastic. E la console. 3 Magica.

ça va très bien. Cione, a Sioleta. Mario. Voilà. Ça va. Okay. Right, yeah, right. Yeah, right. È la musica o non è la musica? Esattamente. I don't wanna come back down from this cloud. It's taken me all this time to get high. Yeah, right. Even as my heartbeat screams out loud, sunlight breaks like glass in my eyes. No, I don't wanna come back down from this cloud. It's taken me all this time to get high. As my heartbeat screams out loud, sunlight breaks like glass in my eyes. We'll be right back. eyes. desde la mattina. Siamo arrivati nel momento magico. Magic again, magic moment. Esattamente alle 2 della mattina, una mattina come tante altre mattine. Erano anni che Mario Più, Mauro Picotto e Franchino lavoravano insieme. Oggi l'occasione ha portato che noi risuoniamo insieme in una situazione così precaria, presa al volo. Ma tutti quelli che sono venuti questa sera a ballare si renderanno conto che la musica elettronica non ha limiti. Quindi buon divertimento fino alla chiusura. Mauro Picotto, Franchino, la noce mi farà impazzire. Mauro Picotto. Mauro Picotto. Hola hermano, ¿qué hace? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? ¿Anda bien? ¿Anda muy bien? ¿La cabeza? ¿Está loca? Loca, loca, loca. Loca, loca, loca, loca. Saturday night, beautiful Saturday night. c'est la musique. Électronique. Hermano, ¿qué hace, hermano? ¿Cómo anda? Anda bien. En la cabeza que anda bien. La cabeza hay que ser loca. Mauro Picotto, la consola. La música que fa viaggiare. Italia, il mondo e molto más. Questa notte insieme a noi. Ci scusiamo ancora per l'inconveniente discoteca, però la cosa più importante non è la discoteca, ma è la musica. La musica. E questa notte la musica è musica avanguardia e la presentiamo noi, sempre noi. Metto in psicosi, Cosmo Staff, Chicago. Mauro! We'll be right back. Thank you. Ti piace? Ti piace? Come ti piace? Come ti piace? Que me calienta la cabeza. Muchacha, que me calienta la cabeza. muchacha que me calienta la cabeza. Quando la musica non è più musica, ma la musica diventa magia, è perché la console è magica. Mauro, Mauro, Mauro, Piccotto, Salando il Sigur, a tre fantastico, è la console. Magica. La musica elettronica no limits, non stop, only power, Mauro Piccotto. Un mondo elettronico, un mondo digitale, la proiezione mentale del tuo io digitale. È controllo. È tutto sotto controllo. Siamo nati in un mondo controllato, electronic control, self control. Electronic control. Mauro Piccotto. Bianchino! E controllo! sala. I bimbi della chiesa. Un saluto speciale ai bimbi della chiesa. Welcome to home, my brother. Brother and sister. You wanna move your body? You wanna shake your body? You know what is tomorrow? Le balle know what is tomorrow. Tonight is important. Mauro Peccato. Right here. Amore, I love you. Je t'aime. I love you. Je t'aime. I love you. Je t'aime. I love you. Bump, bump, bump.